a silver salver, bailed out my worst fears. 'Cause man has to be his own savior. Blind sailors, imprisoned jailers, God tamers, no one to blame us. The sky is blue, my hands untied. A world that's true through our clean eyes. Just look at you with burning lips. You're living proof of my fingertips. Walked on a tidal wave, laughed in the face of a brand new day. Food for survival for. Bentornati a Rock Legends su Radio RCS, l'onda veronese, le frequenze le facciamo dire come tradizione, in questo caso al nostro ospite Andrea di Quinta Stanza. Eccole qua, sono il 98.6 per la bassa veronese, zone della Lessinia, 101.5 per Verona città e rimanente provincia, 91.5 per la zona Lago di Garda e 94.7 per la Val d'Adige. Radio RCS si può ascoltare anche attraverso lo streaming dal sito www.radiocs.it. Dall'OR americano passiamo alla new wave inglese degli anni 80 con alcuni dei loro protagonisti. Prima canzone era Silver degli Echo and the Bunnymen dal disco Ocean Rain del 1984. Band che è ritornata sulle scene da alcuni anni, che a sentire le sonorità sta influenzando molto l'indie rock di oggi. Che ne dici? Guarda, ti dico la verità, questa canzone non la conoscevo, però a giudicare dal genere un po' alternative rock, post-punk mi sembra, sì, ci credo, sì, che l'influenza sia molta, insomma, comunque è un genere che mi piace. Meravigliosamente male il titolo del vostro qua disco. Quale significato avete voluto dare a questa frase? Meravigliosamente male è un ossimoro, no? Quindi è un po' una frase retorica che accosta due termini che sono contrapposti. Mm. Meravigliosamente male. La contrapposizione è un qualcosa che ci appartiene, no? Mm. Quindi la frizione, lo stacco, bianco e nero. Bianco e nero, ecco. Quindi tutte le sfumature che stanno all'interno di questo mondo è quello che, come dire, che respiriamo tutti quanti e che volevamo mettere all'interno del nostro album. Nel 1983 esce Meet Is Murder degli Smiths, la band del carismatico ed irrequieto Morrissey di Johnny Marr, con una canzone dal titolo How Soon Is Now. We'll be right back. shyness that is criminally vulgar. I am summoner of nothing in particular. You shut your mouth, how can you say? I go about things the wrong way. That is criminally vulgar. I am the summoner of nothing in particular. You shut your mouth, how can you say? I go about things the wrong way. I am human and I need to be loved, just like everybody else. Nonostante non siano più assieme dal 1987, da anni si parla ancora di loro, dei leader della band, che spesso ritornano a farsi sentire con nuovi dischi solisti con altre band. Che ne pensi? Beh, che dire, uno come Johnny Marr è un mito vivente, no? Quindi non possiamo altro che, anche perché se pensiamo ai Radiohead, agli Oasis, ai Verve, certo, sicuramente hanno preso spunto dagli Smiths, quindi... un gran gruppo, nonostante abbiano suonato credo pochi anni insieme. Sì, dall'83 fino all'87. Ecco, però vuol dire, hanno influenzato grandemente la musica anche di oggi. Vostre influenze musicali, quali sono e quanto sono importanti nella scrittura delle canzoni? Guarda, non lo so se abbiamo delle influenze musicali. Noi abbiamo dei generi abbastanza disparati, come si variegati. Suol dire. Variegati, sì, andiamo dai, come gusti musicali, dai Pearl Jam, i Muse, gli Audioslave, agli Incubus, gli U2, quindi probabilmente all'interno delle nostre canzoni emerge un po' di tutto e un po' di niente di questa cosa, chiaramente, però abbiamo un sound nostro, forse. Ecco. Chiudiamo allora la seconda parte con i Pretenders. Chrissy Hynde guida questa band tra alti e bassi dal 1979 ed è ormai nella unica superstite della line-up originale. Dal disco Learning to Crawl ci ascoltiamo uno dei loro successi, Back on the Chain Gang. Poi sarà la volta di sentire sei canzoni tratte dal disco Meravigliosamente Male di Quinta Stanza. Rimanete in ascolto. picture of you. Oh, what hijacked my world at night? To a place in the past we've been cast out of. Now we're back in the fight. We're back on the train. Pigeon from hell. Through sand in our eyes and descended like flies. Put us back on the train. Life of a long